Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Benvenuti a Cartellone, la trasmissione dedicata al teatro e agli spettacoli di Radio 24. Vi porteremo in questa prima puntata in giro per l'Italia per le rassegne estive. Iniziamo da Cividale del Friuli, dove questo sabato si inaugura il Mittelfest, che durerà fino al 13 settembre, con un monologo in prima nazionale, Panico ma rosa, diario di un non intubabile di Alessandro Benvenuti. Sensazioni sul palco dopo il lockdown? All'inizio ho una sensazione di cimitero, vedere le file di sedie in quel modo anomalo, diciamo distanziato, sedie impaurite, sedie che non danno calore ma sembrano più croci che sedie, ti dà questa sensazione proprio cimiteriale, di essere in un cimitero. Ci può dare un assaggio del testo, visto che è una prima nazionale? L'attore si presenta in scena saltellando un po' come un invasato, un burattino che ha uno specchio in mano, con lo specchio intercetta un fascio di luce e con quella si illumina il volto, fa una linguaccia al pubblico, sorride e poi dice un po' da invasato: voi datemi un Golgota e un Cristo ve lo trovo da mettere là nel mezzo. Ho un sacco d'amici, attori disoccupati, disposti a farsi spinare la testa e accendersi di sacra luce anche senza battute, a braccia larghe e basta, immobili. Linguaggio del corpo, neanche mimo, di più, una pietà verticale, basta. Io poi deciderò, avendo rubato tanto a vite altrui, se stare a destra o a sinistra. Prova i due profili e dice: a destra meglio, la parte buona è questa, la sua sinistra del volto. E da lì conclude: sbraitare un delirio che sorprenda tutti? E allo specchio dice: che dici come inizio? Sì, allora vado avanti. Ecco, questo racconto un po' lo spirito in qualche modo provocatorio e di sofferenza anche che c'è in questo spettacolo, e anche questi continui riferimenti a Cristo, alla religione, a Dio, eccetera eccetera, sono probabilmente i problemi mai risolti. Dice: io già il primo incontro, dice, con Dio fu molto forzato, poi ci si lasciò anche male, uno metabolizza peggio e resti tutta la vita tra il mistico e il cabaret. Ci spostiamo al Teatro Carignano di Torino, dove è in scena Molly Sweeney per la regia di Valerio Binasco, una nuova produzione, un testo che riporta alla luce Oliver Sacks. Quando avevo 5 anni mio padre mi aveva già insegnato i nomi di una dozzina di fiori, alberi, cespugli, erbe. Faceva il giudice e viaggiava in tutto il paese per lavoro, ma ogni sera, tornato a casa, mi prendeva in braccio e mi portava fuori nel giardino. Questo testo riporta alla luce le scoperte di Oliver Sacks. E che cosa l'ha ispirata? Oliver Sacks è un autore il cui genere è un po' la letteratura clinica, ma ciò che ci colpisce di più nelle sue storie è che lui credo che abbia un atteggiamento di uguale amore sia per il mistero delle malattie, sia per il mistero dei sentimenti umani e delle psicologie. Per cui ciò che ci attira di più, ciò che ci commuove di più è proprio percepire queste storie come metafore, come favole, la cui morale della favola è che non esiste una salute che vada bene per tutti, né così come non esiste una malattia assoluta. La storia di Molly Sweeney ci racconta però una sconfitta della scienza. Esiste un divario così profondo tra mondo interiore e visione esterna? Il divario fra il mondo interiore e il mondo esterno è un divario, a mio giudizio, immenso, e noi non abbiamo alcuno strumento per misurarlo. né credo alcun organo per percepirlo sul serio. Credo che ci sia una distanza abissale fra la verità percepita e la verità, anzi posso arrivare a dire che credo che nessuno di noi sa minimamente cosa sia la verità. Qual è il momento che l'ha colpita di più di questo spettacolo, la frase che le è entrata nell'anima? Questo è un testo pieno di frasi molto forti, anche se innanzitutto il personaggio che mi ha emozionato di più è Rice, che sembrerebbe essere un po' il terzo personaggio, però un dottore che, il quale avrebbe il compito di ragionare, avrebbe il compito di stabilire dei limiti all'accanimento terapeutico, stabilire dei limiti a dove la scienza può entrare dentro la vita privata delle persone. Molly Sweeney è una persona che sta bene, semplicemente non ci vede, ma questa non è una malattia nel momento in cui lei sta bene. Eppure i luoghi comuni dicono che bisogna vedere. Ecco, un dottore come Rice aveva tutti gli strumenti per accorgersene e non procedere oltre con questi esperimenti clinici, ma lo fa perché? Perché cerca disperatamente se stesso, si è perso perché un brutto giorno nella sua vita ha perduto la sua famiglia, cioè le sue figlie se ne sono andate, sua moglie lo ha lasciato, è rimasto solo. Quindi Molly Sweeney si rivolge a un uomo che non è in grado di avere un equilibrio in quel momento perché ha perso completamente ogni stima di sé. A Roma adesso, dove nell'ambito della rassegna Di là dal fiume, Jacopo Fo presenta a Porta Portese domani 6 settembre il suo monologo Ecologia, follia e dintorni. La cosa grandiosa di questa rivoluzione ecologica è che noi riusciremo a farla soltanto se metteremo in discussione il nostro modello di vita, il nostro senso della vita, i nostri obiettivi. Che cazzo volete fare della vostra vita? Io credo che ci sia un processo di crescita. Oggi ci sono le tecnologie, tutte le tecnologie che ci permettono di vivere in maniera straordinaria, mangiare tutti gli abitanti del pianeta, avere medicine per tutti e anche proteggere l'ambiente. Facciamolo, si tratta soltanto di capirlo. Lei dice che le migliori menti del pianeta hanno di meglio da fare che occuparsi della felicità e della sopravvivenza. E allora lei che cosa suggerisce? Sì, è pieno di tromboni il mondo, è una cosa veramente imbarazzante. Dobbiamo aspettare che maturino le esperienze, ahimè. Il Covid ci sta insegnando che le città più inquinate del mondo, le zone più inquinate, come la Lombardia, come Wuhan in Cina dove è nato il virus, mettono a rischio le persone. Fino a quando erano soltanto dati statistici, in Italia più di 70.000 morti per inquinamento interessava poco. Adesso io credo che le persone inizino a rendersi conto, il clima è folle, cioè insomma l'evidenza che siamo in una situazione difficile è davanti ai nostri occhi. Cos'è l'economia del risparmio? La cosa meravigliosa è che non dobbiamo rinunciare al benessere per proteggere l'ambiente, dobbiamo smettere di buttare i soldi dalla finestra. Il sistema a livello mondiale non è capace di generare ricchezza e butta via delle cose preziose. I liquami, il letame, quelli sono soldi, i batteri si mangiano tutte quelle porcherie, tutta la roba che buttiamo via, gli avanzi, gli scarti dell'industria alimentare, dell'agricoltura, e se li mangiano e producono biogas, fantastico. Non le sembra un po' New Age il suo spettacolo? Il mio spettacolo è ottimista, è positivo. Io non credo al pensiero positivo perché è una cavolata mostruosa dire che la mente può tutto e che se vuoi puoi. Ma attenzione, al contrario, il pensiero negativo funziona benissimo. Se tu dici non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la fai. Infine a Iesi, dove Neri Marco Re inaugura il festival Pergolesi Spontini, che proseguirà fino al 4 ottobre. Domani sera è la volta di Rispondimi Bellezza, uno spettacolo dedicato a Raffaello Sanzio, una prima al Teatro Pergolesi. Dunque, ho ricominciato a fare spettacoli dal vivo dai primi di luglio, però in effetti finora questi spettacoli si sono sempre svolti all'aperto e questa occasione invece al teatro di Jesi sarà la prima volta in effetti da quando è iniziata questa epidemia che ritorno a esibirmi da un palcoscenico di un teatro al chiuso, quindi c'è sicuramente la voglia e l'emozione di ritrovare queste sensazioni che sono state tenute in congelamento per un po' di tempo, per tutti questi mesi. È un musical, un'opera interattiva? Interpreterò dei versi scritti da Davide Rondoni e sulla musica di Salvatore Passantino scorreranno delle immagini, quindi è uno spettacolo direi multimediale perché si fondono il visivo, e l'audio appunto legato alla musica e la mia interpretazione di questi versi a 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, che in qualche modo ovviamente intendono celebrare il suo talento e la sua arte. Questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e riascoltare la puntata su podcast. Io vi do appuntamento il prossimo sabato alle 15:15.